La tarantella è un pino novello, un sorso d'allegria, la radice nella terra che nutre la poesia. Se come balla la tarantella, a casa ci porterà, sulle strade del mondo insieme si canterà. Le luminarie accese nella piazza del paese, incantano le voci nel sagrato della chiesa. La tua donna bianca comincia a veleggiare, duello con le spade per poterti conquistare. Si puntano le dita, la ronda chiude e spinge, la finta per colpire, l'armonica che piange. Un canto dai sonagli si alzerà. La tarantella è un vino novello, un sorso d'allegria, la radice della terra che nutre la poesia. Se come balla la tarantella, a casa ci porterà, sulle strade del mondo insieme si canterà. Inferno e paradiso sulla strada del mercato, il tuo passo tra la gente mi lascia senza fiato. Fino a notte fonda ti farò ballare, la musica pagana per il santo guaritore. Ti sfioro mal vicino, con lo sguardo ti corteggio, mostrando il fazzoletto mi provochi ma sfuggi. Un canto dalla terra si alzerà. La tarantella è un vino novello, un sorso d'allegria, la radice nella terra che nutre la poesia. Se come balla la tarantella, a casa ci porterà, sulle strade del mondo insieme si camperà. La tarantella è un vino novello, un sorso d'allegria, la radice nella terra che nutre la poesia. Se come balla la tarantella, a casa ci porterà, sulle strade del mondo insieme si canterà. La tarantella è un vino novello, un sorso d'allegria, la radice nella terra che nutre la poesia. Se come balla la tarantella, a casa ci porterà, sulle strade del mondo insieme si canterà.